quella crisi che non ti riconosco, sono scionato e drogato, eh? 100.000 euro, fate da quella grande bagassa mamma tua, da quella grande bagassa mamma tua, capito? Perché adesso stanotte ti piombo di telefonate, froscio, perché sei vestita a rompere coglione, vero? Divertito ti sei, eh? A fare il casino, divertito. Noi mi diverto io a far svegliare tua madre, capito? Eh? Coglione! Sveglio pure l'amico tuo, quello scroscio siamo a te. Domani mattina mi diverto io a svegliare tua madre. Puoi non dire che non sei tu che rompi coglione, capito? Froscio, drogato. Sei un drogato! Drogato! Perché non parli con la voce tua, froscio, drogato? Eh? Cosa credi che non ti ho riconosciuto? Eh? Perché non vai a grattare il coglione a tua madre? Eh? Perché non vai a grattare il coglione a tua madre, brutto froscio? Froscio! Come piombo di telefonata a te. Come faccio da oltre, ne faccio pure a te, capito? Perché vi faccio crepare tutte e due. Ti faccio crepare, capito? Brutto coglione! Quella grande bagazza mamma tua, eh?